M2O, in diretta dallo stabilimento balneare Labotto Balneare Raenlab Balneare Raenneare Musicale Basilico. Suonando il pittore D'Agostino. Buongiorno. Bizzarro. chiedeva di ricambiarmi il servizio. Ma fino a quel momento considero l'ondone in occasione delle nozze di mia figlia. Ascoltando i granelli di sabbia di Gigi D'Agostino, mica minchiette. Out of Mind Summer Live 06. Yes, ora 06. Yes, ora 06. Yes, ora 06. Come inquiete.

N2O Out of Mind Summer Live 06. Yes 06. Sta suonando il pittore Gigi D'Agostino.

Stai ascoltando i granelli di sabbia di Gigi D'Agostino. Mica minchiette, We'll be right back. Out of Mind Summer Live 06. Sta suonando il pittore Gigi D'Agostino. Oh yeah, yeah. Open up your heart, what do you feel? Open up your heart, what do you feel? Is it real? Yeah. The Big Bang may be a million years away. Oh. But I can't think of a better time to say. From high above. If you ever meet your inner child, don't cry, no, no, no. Tell them everything is gonna be of the sky. Thank you. Live e Zero Sur. Sta suonando il pittore. Gigi D'Agostino, Nizzo da Gigi D'Agostino, Nizzo da Gigi D'Agostino. Come on. M2O Out of Mind Summer Live 06. Sta suonando il pittore. Gigi D'Agostino. Yeah, beat. M2O, musica allo stato puro.